acqua non sapevo, acqua non avevo, sei diventata per me. Acqua la vita che serve nelle vene, la voglia di avere te, oh oh. Acqua non sapevo, acqua non credevo, che saresti diventata te. Io ti ho preso, ti ho stretto, ti ho detto sei acqua per me. Hai guardato e poi mi hai salvato, hai dato tutto quello che io mi hai dato, tutto quello che non ho, mi hai dato la vita, mi hai dato l'acqua, mi hai dato il nutrimento, mi hai dato la gioia, mi hai dato il mondo dentro, mi hai dato tutto, mi hai dato un cane, mi hai dato tutto. Oh, oh, oh, la, la. Adesso ce ne andiamo al cinema a vedere quello che eravamo, quello che era la nostra storia, o forse quella che dovremo ancora raccontare. Ma io lo so. Lo so di già quello che devo dire. Devo dire che per me sei acqua, sei vita, sei solo nutrimento. E sarai la gioia anche quando sarò dopo un po' più vecchio. Sarò anche forse un po' più triste, perché si avvicina il mio momento. Ma io non voglio, voglio ancora nutrirmi di te, di sola acqua da bere per me che sei te, ogni giorno sei te. Il mio cane mi guarda come fossi un re, il mio cane mi vede come uno scimpanzé. Sei acqua per me, quando in quella strada eravamo a passeggiare. Acqua non sapevo, acqua non avevo, sei diventata per me acqua, la vita che scorre nelle vene, la voglia di avere te, oh, oh.